24 mattino. Buongiorno a tutti, vorrei che deste voce a questo mio piccolo appello. Ho la moglie che lavora all'ospedale di Siena, alle Scotte, e loro sono senza dispositivi di protezione, non hanno più mascherine e tutti sono davvero molto arrabbiati. Va bene, adesso che con questa intervista avete terrorizzato metà degli ascoltatori, siete contenti? Non devono stare solo a casa quelli che abitano nella zona rossa, tutti bisogna stare attenti. La gente non sta capendo niente, è un momento cruciale. Io sono un medico che lavora a contatto con certe persone, purtroppo per loro e anche un po' per me. Bisogna rispettare i decreti, è importantissimo, è una settimana cruciale. La gente vedo che fa fatica a capirlo, ma è il momento di tirar fuori le palle. Ed eccoci con le vostre voci, continuate a mandarle al 349-238-6666 con WhatsApp audio. Fateci sentire la vostra voce, fatemela sentire, va. Ripeto, ditemi anche un po' come la state vivendo, come state vivendo queste ore. All'ascoltatore devo una risposta, ovviamente, all'ascoltatore che dice, insomma, con questa intervista avete terrorizzato metà delle persone. Guardi, non si tratta di terrorizzare. Si tratta, come ha detto il medico un istante fa, di rispettare delle regole di buonsenso per evitare che la situazione si faccia sempre più problematica. Punto. Non è terrorizzare, non terrorizzare, si tratta di guardare la realtà dei fatti, che presenta dei fronti di preoccupazione. Ora, massima calma, naturalmente, niente allarmismo, ripeto. Però l'allarme c'è, è oggettivo, è nelle cose, no? E quindi non è allarmismo, è far sapere che c'è un allarme, un'allerta per questa questione di Covid-19. Poi, se volete, non ne parliamo, però così stanno le cose. 349-238-6666 per gli sms e i messaggi su WhatsApp, anche audio appunto. La diretta Facebook l'hanno ripristinata, Giorgio De Luca? Pare di sì, perché abbiamo avuto dei problemi nella prima parte alle 6.30, mentre invece adesso è tornata. Siamo su Instagram e su Twitter. È la seconda parte di 24 mattino, lunedì 9 marzo, sono le 7.22 minuti della parte dedicata alla rassegna stampa. E iniziamo come sempre dalle aperture dei quotidiani. Partirei da Repubblica, perché intervista il presidente del Consiglio Conte. Il titolo è cara Italia, l'ora è buia, ma dobbiamo farcela. Il Fatto Quotidiano, porte chiuse e bocche aperte nelle regioni, tutti contro tutti. Dilaga il contagio, fuga al sud, è il titolo del Messaggero. Con dettagli anche su quello che sta succedendo a Roma, arrivi e movida fuori legge la stretta di Roma. Il virus avanza, lite sui divieti, è il titolo del Corriere della Sera. State a casa o fermiamo l'Italia, e tra virgolette, ed è l'allarme degli epidemiologi, che è il titolo della Stampa. Un commissario contro i danni del governo, è quello della Verità. La vera emergenza a pochi posti letto, quello del Quotidiano Nazionale. Viaggio nel ghetto Lombardia, è il titolo di Libero. Adesso chiudiamo anche questo governo, è quello del Giornale. Il Sole 24 Ore del lunedì ci parla del virus che riscrive tasse, bilanci e contributi. Come sapete, il Sole 24 Ore del lunedì è un settimanale e ci informa che sulle rate dei mutui è previsto uno stop a largo raggio. E poi la Gazzetta dello Sport, che il titolo è su Dybala, è una gioia nel silenzio, la Juve schianta l'Inter 2-0 e torna in testa. E però ovviamente si parla anche dello stop al mondo del calcio. Il virus avanza, il calcio si ferma, domenica drammatica, più contagi, ma la Serie A litiga. Tutto meno che un bel segnale. Alle 7.24 minuti iniziamo e cerchiamo di trattare anche qualcosa di diverso in questa prima parte della rassegna stampa. Poi con Paolo Mieli verremo alla parte dedicata al coronavirus. Tratteremo sia delle questioni politiche sia del tema più largo, quello che abbiamo iniziato a raccontare fin da questa mattina, che è il tema della responsabilità personale, di quello che fare, dell'appello che lanciava il medico, dell'appello che lanciava l'altro ascoltatore: state a casa. Iniziamo da qualcosa di diverso, perché mentre i paesi europei, non solamente l'Italia, perché non crediate che ci siamo solamente noi, sono presi dal problema del coronavirus e stanno un po' riflettendo su come affrontare la questione, insomma anche in Francia ormai siamo ad un migliaio di casi, ebbene Recep Tayyip Erdogan continua a fare sostanzialmente quello che vuole con i profughi al confine turco-greco. E oggi, ci racconta il quotidiano La Repubblica, pagina 26, ha deciso di invitare la Grecia ad aprire le porte ai migranti. Il presidente turco dice: lasciateli andare verso altri stati europei. A 10 giorni dall'apertura unilaterale della crisi dei profughi, racconta Marco Mensurati, inviato ad Alessandropoli, Erdogan continua con la sua strategia: tenere in ostaggio la Grecia per avere soldi e favori diplomatici dall'Europa. Così, dopo aver fatto annunciare sabato alla TV di Stato la sua visita di oggi a Bruxelles e dopo aver ordinato alla sua guardia costiera di non far più partire migranti verso l'Egeo perché troppo pericoloso, ieri il sultano è tornato a provocare la Grecia. Vi faccio un appello: aprite le vostre porte e liberatevi di questo peso, lasciateli andare verso altri stati europei. La conta dei profughi al confine in questo momento ammonterebbe a circa 40.000. Siamo a pagina 26 della Repubblica e si affronta questo tema di Erdogan. Veniamo a vicende un po' più italiane. Guardate che è curioso, sempre sul quotidiano La Repubblica siamo, a pagina 24, che proprio in ore nelle quali si discute tantissimo di lezioni online, si discute di lauree online, si inneschi una polemica sul tema delle università telematiche. Le sapete, sapete cosa sono, le avete sentite nominare, contano 82.000 iscritti e 13.000 laureati. I dati riportati dalla Repubblica sono quelli del Sole 24 Ore, un settore che aspetta da anni un riordino strutturale. Ma cosa succede? Succede che nelle settimane scorse l'ex ministro dell'università Lorenzo Fioramonti, prima delle sue dimissioni a dicembre scorso, aveva fissato dei paletti. Ci si può laureare in psicologia o in pedagogia per via telematica? Aveva detto di no. Un decreto che aveva scatenato la protesta delle università telematiche e che ora è stato respinto dalla Corte dei Conti per vizi di forma e dunque ritirato. Ha sollevato lo sdegno degli ordini delle professioni sanitarie, del mondo accademico, di pedagogisti e psicologi, i quali dicono: queste lauree, quelle in pedagogia, in psicologia, non si possono fare telematicamente, vanno fatte con delle prove sul campo. Ora la palla passa al neo ministro Gaetano Manfredi, che da presidente della CRUI aveva sostenuto il provvedimento varato da Fioramonti. E però, insomma, il riordino generale di queste università telematiche, che riguarda 83.000 iscritti, evidentemente è ancora alle viste. E certamente in questa situazione sarà difficile risolverlo. Un'altra piccola storia, prima di andare alla pausa e poi passare a tutte le cronache dal coronavirus, è una storia che ci riporta il Fatto Quotidiano a pagina 22, con il pezzo, lo firma Lilli Mandara e arriva da Pescara, ed è una storia che farà discutere, in una situazione normale farebbe discutere all'interno del Partito Democratico, all'interno del centro-sinistra, perché ha a che fare con l'aborto. Pescara, PD e centrodestra uniti per la mozione contro l'aborto. Un albero per ogni bambino mai nato. Passa così la mozione della vergogna, senza che nessuno alzi un dito, senza che nessuno provi a porre qualche interrogativo. Passa per iniziativa del centrodestra, ma anche con i voti del centrosinistra, del PD e persino della ex candidata sindaco di Articolo 1 e quindi della sinistra, Marinella Sclocco, una donna. Proprio così. Accade a Pescara, in consiglio comunale. Qui la maggioranza è di centrodestra, quella che qualche mese fa rifiutò la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e che poi, una volta scoppiato il finimondo, fece una frettolosa marcia indietro. A presentare la mozione è Adamo Scurti, un consigliere ex centrosinistra, passato nel frattempo al centrodestra, che usa una legge dello Stato in ambito ambientale per attaccare la 194 sull'aborto. Cosa succede? C'è una mozione varata appunto dal Consiglio Comunale. L'interruzione di gravidanza spontanea o volontaria per morte in utero o improvvisa del lattante sono situazioni drammatiche che una donna e una famiglia vive sulla propria pelle, con riflessi significativi sulla propria vita, scrive il consigliere Scurti, che invita il sindaco a impegnarsi a piantare un albero per ogni bambino mai nato, a individuare un'area sul territorio comunale da dedicare a una nuova forestazione urbana o integrare aree già destinate allo scopo. In sostanza, scrive la giornalista Lilli Mandara, un cimitero dei feti, tipo quello che andava propugnando tempo fa la destra anti-abortista, in versione green, e con il PD e la sinistra che hanno votato a favore. Una pausa. "24 Mattino". Poi più avanti torneremo a prendere anche le vostre voci, voi continuate a mandarcele al 349-238-6666. Intanto due ascoltatori di fila ci dicono: guardate che la gente non si sta spostando solamente al sud, per esempio in Liguria da noi stanno arrivando tutti, milanesi, lombardi in genere, che hanno le seconde case, così come quelli che si spostano su Forte dei Marmi. Io non so esattamente della frase "restate a casa", cos'è che non è chiaro? Non seconda casa. Allora, restate nella prima casa, cioè nel vostro domicilio, ok? È più chiaro così? Ci arriveremo tra un attimo a questa questione, Ci arriveremo, ma prima con il nostro Paolo Mieli. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Buon inizio di settimana. Partiamo dalle questioni politiche, per così dire, che sono questioni che ovviamente si intrecciano con tutto quello che succede, con le prescrizioni, con quello che è stabilito dal decreto, con le polemiche che ne sono nate e che partono, se vogliamo, oggi dai giornali con l'intervista al Presidente del Consiglio sul quotidiano La Repubblica, no? Questo "cara Italia, l'ora è buia ma dobbiamo farcela" in due pagine. Sì, "l'ora è buia" è una citazione di Churchill, un celebre discorso che Churchill, appena chiamato alla guida dell'Inghilterra nel maggio del 40, mentre le truppe inglesi, britanniche si stavano ritirando dalla Francia su barchini per guadagnare il territorio, e Londra stava per essere messa sotto il fuoco delle bombe, disse: "Questa è l'ora più buia", e fece il famoso discorso "lacrime e sangue", "chiedo alla nostra patria di versare lacrime e sangue, non so ancora dirvi neanche se ce la faremo", un discorso letterariamente bellissimo. Lui si è rifatto a questo precedente churchilliano. Devo dire che però nell'intervista non dice nulla di nuovo, se non delle cose molto generali, molto esortative. L'unica cosa che io ho trovato di nuovo è che rivela di essersi fatto il test di non essere positivo, al contrario di molti, sì, molte personalità, perché ieri anche il governatore del Piemonte Cirio si è fatto il test ed è risultato invece positivo, e soprattutto il capo di Stato Maggiore dell'Esercito si è fatto il test ed è risultato positivo. Insomma, non c'è bisogno che aggiunga dettagli ansiogeni. Ieri è stata una giornata che alcuni editorialisti, per esempio Michele Brambilla, direttore del Nazionale del Carino Giorno, definiscono 8 settembre, sì, evocando un'altra data tragica, quando il re Vittorio Emanuele III dichiarò l'armistizio con gli anglo-americani e l'Italia si sfasciò. Quindi 8 marzo diventa come l'8 settembre, lo scrive apertamente Michele Brambilla, ma lo cita molti altri giornali. Sì. Certamente. Allora, questo per così dire dal lato, no, di quelle che sono un po' le preoccupazioni di tutti. Dall'altro c'è, insomma, questo filo di polemica che attraversa la politica in queste ore, soprattutto e nuovamente mi sembra di poterti dire tra le regioni. Il problema è tra le regioni e il governo. Su due fronti, Paolo, da una parte chi ha diffuso il decreto nella giornata di sabato, le bozze del decreto nella giornata di sabato, e quindi da dove sono partite le fughe di notizie. E questo è un primo elemento. Il secondo elemento è sulle norme in sé, no? Per esempio il Veneto, il presidente del Veneto Luca Zaia contesta questa estensione della zona arancione. E poi ce n'è una terza, adesso che vediamo tutte e tre, ce n'è una terza che è quella che questa bozza diffusa in anticipo, che è una cosa gravissima, adesso poi tutto si vedrà alla fine di questa storia, però questa bozza ha provocato un allarme, per cui a Milano molti sono scappati verso il sud. E terza questione, le regioni del sud non vogliono che le persone che sono tornate, molti sono residenti al sud, Puglia, Calabria, Campania, passino in osservato, non si sappia chi sia, e non fanno tanto, non prendono delle decisioni, anche perché non potrebbero prenderle di respingimento, ma vogliono censirle in maniera severa, censirle, metterle in quarantena, perché il vero problema in questo momento, come ormai tutti abbiamo capito, non è tanto il problema, non è soltanto diffondersi del male, ma il problema è dei posti letto, per cui se questa crisi che ha già messo in ginocchio la Lombardia si diffondesse in Calabria, dove in Calabria, Sicilia, Puglia, dove i posti letto, io li chiamo posti letto per sì, non entrare in quelle tecnicalità, posti letto per le situazioni emergenziali sono pochissimi, e allora esplode tutto il paese, esplode sì, tutto il paese, quindi non è una cosa da poco, anche quello che tu ricordavi delle persone che sono fuggite nella seconda casa. Il motivo per cui fuggono nella seconda casa è evidente, perché pensano che in Liguria o a Forte dei Marmi i ricchi, se lo possono permettere, che hanno quella seconda casa, possono fare una vita un po' più rilassata, meno sì, tranquilla, tranquilla dentro casa con i figli, certo, però questo, il fatto che siano contagiati presidenti di regione, Zingaretti e Cirio, capo di stato maggiore dell'esercito, vuol dire che anche i maggiorenti che hanno frequentato le zone a rischio in questo periodo non è che sono sicuro, per cui chi te lo dice che questi signori, questi ricchi, certamente, che vanno in Liguria non portino una malattia. Certamente. Cioè, questo sta creando sì, una serie di problemi connessi, e tutti capiscono che c'è qualcosa di inadeguato nella struttura generale, adesso non parliamo del Presidente sì, del Consiglio, che sta governando questa situazione, prima per una gigantesca sottovalutazione all'inizio, tutti andavano, pensavo che il problema fosse un problema di razzismo, ad abbracciare i cinesi, a fare poi eccessi di valutazione, almeno stando a quello che tu hai ricordato, che dice Zaia, ha detto provvedimenti troppo severi e troppo generalizzati, e soprattutto difformi, anche perché ricorderei che è la seconda volta che le notizie fuggono prima, perché già sì, quando ci fu il decreto di sospensione delle scuole, della chiusura delle scuole, lì, sì, anche lì circolò quindi, prima. E quello... anche lì dissero mai più, questa è l'ultima volta, come oggi dice Conte nell'intervista a Repubblica, sì, ma l'ultima volta sono già due, l'ultima sì, volta è una, troppe ultime volte. Sì. Allora, dato che sono ore delicate queste, caro Paolo, e che hanno a che fare con le decisioni che devono prendere le singole persone, ogni tanto risponderemo anche a qualcuno. Un ascoltatore, parlavamo della Liguria, ci ha detto: guardate, io vivo a Genova e lavoro a Como, perché dite che devo rimanere in casa? No, non abbiamo detto questo, tant'è vero che il decreto prevede la possibilità per le persone che abbiano esigenze lavorative di potersi spostare, di entrare e uscire da queste cosiddette zone arancioni. Basta un'autocertificazione, su questo possiamo forse esprimere qualche perplessità, però insomma così è, basta un'autocertificazione, così è previsto dal decreto, quindi lo può fare, si può fare per questi motivi e per motivi di salute, e però insomma la critica era nei confronti di coloro che nel momento nel quale arriva il decreto di blocco delle zone arancioni, prima che magari mettano l'esercito o i poliziotti al confine, cosa fanno? Prendono la macchina, partono e vanno nella seconda casa. La critica è a questi, no? Anche perché, come ricordava stamattina il New York Times, l'Italia è un paese che è vero che in alcuni momenti di incertezza ha saputo drizzare la schiena, però è anche vero che è la patria di furbi. Sì. E fino al momento in cui non tutti percepiscono questa emergenza, ognuno fa il furbo, sì, tenta di fare il furbo, gli sembra di fare il furbo, che poi spesso questa furbizia è autolesionista, e intanto il nostro paese, come è noto, è balzato al secondo posto mondiale per diffusione, sì, del virus e anche diffusione della mortalità, cioè dopo la Cina al mondo ci siamo noi, abbiamo, sì, superato anche il Sud Corea e l'Iran. Il traffico, e poi veniamo appunto a questo tema più generale, che ha a che fare con cosa si fa, come ci si muove e come ci si comporta, prova ne sia del tema della furbizia o quantomeno dell'irresponsabilità. La foto che ci ha mandato poco fa un'ascoltatrice, foto di ieri dalla darsena di Rimini, messa anch'essa in zona arancione, pieno di gente seduta tutta vicina intorno ai tavolini a bere tranquillamente come se niente fosse. Traffico. Mattino. E dunque, la foto che ci ha mandato l'ascoltatrice da Rimini, ma anche, se volete, pagina 22 del Messaggero, in cronaca di Roma, virus, movida illegale, la stretta della regione, una super quarantena per chi arriva dal nord, ma anche di taglio basso, un pezzo di Marco Pasqua che ci racconta cene spettacolo nei ristoranti, così le regole vengono ignorate, e i ragazzi che si danno appuntamento a Ponte Milvio. Molti elementi su tutto questo, Paolo, oggi. Sì, tra l'altro anche a Milano fino all'altro ieri c'era un fenomeno del genere ai Navigli. Io ne traggo due o tre conclusioni, te ne dico in modo molto rapido. Primo, che forse è necessario un provvedimento che riguardi tutta l'Italia, e perché questi provvedimenti presi per il nord sono a babbo morto, cioè quando le cose sono ormai già quasi compromesse arrivano dei provvedimenti draconiani e non risolvono nulla, soprattutto perché il resto d'Italia non capisce, e non capisce per un motivo molto profondo che vedrete, che i giornali analizzeranno nei prossimi giorni, e che questa rischia di trasformarsi in una guerra, adesso uso delle parole eccessive, ma dei giovani contro i vecchi, nel senso che il morbo colpisce le persone più anziane, i morti sono quasi tutti dai 55-60 anni in su. I giovani sono quelli a cui viene chiesto il sacrificio maggiore. Io sono fra coloro che glielo chiede, sia chiaro, sì, devono farlo. Però mentre per i vecchi è facile, per i vecchi, per gli anziani, per gli adulti, dire statevene in casa, chiudetevi in casa, non fate altro, sabato, domenica, tranne lo stretto necessario quando andate al lavoro, i giovani, che oltretutto hanno chiuso le scuole, le università, cioè dire che per salvare i nonni, perché non siano contagiati i nonni, perché ripeto, loro non sono a rischio di morte, sono a rischio, sì, di sofferenze, malattia, ma rinunciare alla socialità e starsene chiusi in casa è una cosa che o lo si fa in maniera fortemente coercitiva. Farlo in maniera fortemente coercitiva vuol dire che l'esercito viene mandato in tutti i luoghi, dei bar davanti ai quali stazionano, e così quei bar vengono chiusi all'istante, ma sono misure, bar, ristoranti, altri luoghi di aggregazione, e vengono, questo tipo di aggregazioni vengono sciolte, ma sono misure che o si prendono alla cinese per tutto il paese, oppure genereranno quella confusione di cui hai parlato. Per completezza voglio dire anche, sì, che ieri si è aggiunto rivolte nelle carceri, addirittura con tre, sì, morti, perché non, sono stati eliminati i colloqui con i parenti, sì. E nelle carceri sono stati in più carceri. Sì. E le principali, lo precisiamo per gli ascoltatori, le principali sono le rivolte più dure, sono state a Pavia, dove sono stati presi in ostaggio due agenti, a Modena, dove ci sono state tre vittime tra i detenuti, diciamo parzialmente collegate alla rivolta, nel senso che due di loro avrebbero perso la vita ingerendo degli stupefacenti o dei medicinali che hanno preso in infermeria durante la rivolta, un altro non è ancora chiaro perché, forse per asfissia, ma non si sa esattamente. Prego Paolo, scusa, prosegui, giusto per la precisione. La seconda notizia è che da molte parti ha cominciato Renzi, ma vedo quasi tutti i giornali per la prima volta, non so, La Verità, che è un giornale che tira contro Renzi un giorno sì e l'altro anche, concorde nell'evocare la figura di Guido Bertolaso. Si vuole che Guido Bertolaso, che è il padre della Protezione Civile Italiana, che fu sia con l'Ulivo sia fra il 96-97 sia poi col governo Berlusconi, poi fu travolto nel 2010 dalle inchieste, da inchieste giudiziarie, da cui è uscito illeso, innocente. Ecco, che Guido Bertolaso, per comprovate capacità, gestì il terremoto dell'Aquila, gestì altre situazioni molto molto complesse, venga chiamato quantomeno, non dico la guida del governo, ma a dirigere tutte le operazioni. Poi ci sono un'infinità di cose. Il Papa ha parlato, come noto, per in video messaggio, ha fatto l'Angelus in videoconferenza, diciamo, sì, così. Ci ha tenuto a parlare anche di Idlib, dell'altra grande crisi, quasi non parlano, ma che tiene 1,5 milioni di migranti alle frontiere fra la Grecia e la Turchia, ed è una questione che potrebbe diventare, cioè, se facciamo in tempo a guarire e a cavarcela col coronavirus, ne avremo subito un'altra alle porte. Insomma, oggi a leggere i giornali c'è poco, pochissimo da stare allegri. Fammi solo citare ancora, però. aspetta, prima di andare alle note un po' più, no, un po' più allegre, perché così almeno chiudiamo con qualcosa di, appunto, di un po' più allegro, fammi solamente citare il Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore del lunedì, che ovviamente privilegia l'aspetto economico. Trovate un po' di pagine sui giornali sul tema dell'aspetto economico, ce ne sono. Tra l'altro oggi alle 8:35 avremo ospite il Vice Ministro dell'Economia, Antonio Misiani, proprio per fare un punto su quali saranno le prossime mosse dell'esecutivo. Sole 24 Ore, che ci racconta di un coronavirus che riscrive tasse, bilanci e contributi, nel senso che costringe a ripensare anche il calendario, e soprattutto ci dice che sulle rate dei mutui si ipotizza uno stop a largo raggio. Lo scrivono Michela Finizio e Lungarella, pagina 5. Insomma, è interessante per capire un po' come ci si muoverà sotto questo aspetto. Note più lievi, i tuoi amici Meghan e Harry, Paolo. L'Inghilterra, che non è ancora travolta dal virus, sta trepidando perché Harry e Meghan fanno l'ultima uscita oggi accanto a Elisabetta, e si sono presentati però alla Royal Albert Hall l'altra sera, sabato sera, vestiti di rosso. C'è stato un uragano di applausi, insomma, l'ultimo delirio, perché anche l'Inghilterra, vedrete, purtroppo verrà toccata. Sono come gli ultimi giorni prima della prima guerra mondiale, no? Quando si assisteva, insomma, la guerra era già iniziata, ma qualcuno faceva disperati sforzi per non rendersene conto. Ecco, il grande sforzo dell'Inghilterra è di fare perché Harry e Meghan restino a fare da simbolo di coppia reale, ovviamente con grande rabbia dei reali, certo, designati, e invece loro hanno annunciato che oggi faranno questa ultima comparsa. C'è una foto bellissima, loro vestiti di rosso, sul Corriere della Sera, lei vestita tutta di rosso, lui di militare con la giacca rossa. E l'Inghilterra, l'ultimo delirio prima di precipitare anche loro in una atmosfere di cupezza come quella nostra italiana per Harry e Meghan. E Meghan. Allora, grazie a Paolo Mieri, ti ritroviamo, direttore, mercoledì. Buona giornata e buona settimana. Naturalmente ci fermiamo qua, GR24. Ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella. Parleremo prima col vice ministro dell'interno Matteo Mauri, anche per capire un po' come si stanno muovendo le cose dal lato del decreto, oltre che anche per rispondere a qualche vostra legittima domanda su cosa fare e cosa non fare. Parleremo anche di quello che è un po' di caos sulle ordinanze e sui provvedimenti che si stanno sovrapponendo su questo tema, e poi l'aspetto economico con Antonio Misiani, il vice ministro all'economia. GR, a tra poco.